Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. A cosa serve la politica? Ne parliamo con un personaggio importante della comunicazione scientifica fra poco. Benvenuti a Möbius e adesso i titoli. A cosa serve la politica? Per rispondere a questa domanda bisogna parlare di scienza e ricerca. È la tesi sostenuta nell'ultimo libro di Piero Angela. Gli astronauti della stazione spaziale bevono l'acqua di Torino. Una società italiana si occupa della spedizione, ma sta studiando anche come risolvere la questione dell'alimentazione nelle missioni interplanetarie. Metti una serie a cena. La serie è quella della successione di Fibonacci e va in scena al Teatro Carcano di Milano nell'ambito della rassegna Teatro in Matematica. Terminato un nuovo esperimento sui neutrini. Vanno più veloci della luce, ma un altro esperimento si dovrà fare. La scienza moderna è molto diversa da quella antica dei greci, ma alcuni suoi concetti fondamentali nacquero allora. Piero Angela è qui con noi questa sera. Buonasera, Angela. Buonasera. Allora, a cosa serve la politica, con un bel punto di domanda, è il libro che è appena uscito, edito da Mondadori. Beh, ma siccome è un libro che non è un instant book, lei sapeva che uscire con un libro di questo genere in questo momento, cioè, era il migliore negli ultimi 100 anni? Guardi, io l'ho scritto, ho cominciato a scrivere 3 mesi fa, l'ho finito fine agosto, primi settembre, quindi non potevo prevedere, però no. Certamente sapevamo che era un momento particolare in cui qualcosa doveva succedere. Quello era il momento per spiegare un po' che cos'è la politica. Certo, ecco, allora c'è la tesi forte e subito nelle prime pagine che lei porta e che attraversa un po' tutto il libro, cioè se la politica non funziona è al centro di polemiche molto forti, ecco, allora per via di questa tensione attira, no, su di sé un'attenzione spropositata che, lei dice, non fa capire quali sono i veri motori dello sviluppo, non lo fa capire alla gente, no? Questa è la sua tesi. Sì, esattamente. Noi ci concentriamo troppo sul dibattito politico, sul conflitto tra i partiti, tra anche le persone, e pensiamo che questa sia la politica. La politica in un certo senso è anche questa, sì, perché la dialettica ovviamente, poi, però in sostanza quello che io dico nel libro è che la politica si occupa di distribuire la ricchezza, cioè il dibattito sulle pensioni, sui salari, sulla sanità, eccetera. E questo ovviamente fa parte del modo di essere anche cittadini, partecipare, tirare la coperta dalla propria parte per quanto possibile. È vero, sì, certo. E questo va benissimo. Però in realtà da dove vengono i soldi? Cioè chi è che produce poi la ricchezza da distribuire? Se ci concentriamo solo sulla distribuzione, perdiamo di vista quello che è poi essenziale per la crescita di un paese e lo sviluppo di cui tanto si parla. Ecco, allora il mio libro è proprio un po' concentrato su questo. Se vuole, ho fatto una piccola metafora dicendo che ci occupiamo molto della distribuzione del latte, ma non della mucca. Noi parliamo di questo libro all'interno della nostra trasmissione di scienza perché in più punti, e poi ci sono proprio dei capitoli dedicati alla scienza, alla ricerca. C'è una cosa interessante che lei dice andando a vedere i difetti di tipo culturale che abbiamo, per esempio rispetto a un motore fondamentale come quello della ricerca e dello sviluppo. C'è una cosa che lei dice che a me sembra decisamente interessante. Quando in un capitolo del suo libro lei fa un confronto tra le pagine culturali dei quotidiani quando parlano di cose che riguardano le scienze umane e quando parlano di scienza. Non c'è solo, lei dice, una differenza di quantità, che c'è ed è abbastanza grave, insomma, c'è molto più di comunicazione di tipo umanistico, però c'è anche proprio un modo diverso, no? Ci sono delle pagine letterarie che riescono, che ne so, a prendere una pagina di Gadda e magari avere un dibattito fra 5 persone, e invece la scienza è trattata in altro modo, no? Esatto, questo lei credo lo conosca molto bene, perché tutti noi che ci occupiamo di scienza, di cercare di far capire alla gente il valore, anche i valori che sono dentro alla scienza, quindi l'etica della ricerca, del modo di... Scorrendo le pagine ci rendiamo conto che quando si arriva alla pagina cultura, non c'è una riga di scienza. Si parla di letteratura, di filosofia, d'arte, di musica, di storia. Benissimo, ma nessuno contesta questo. È che invece la scienza viene solitamente relegata nelle poche pagine, quando ci sono, è raro, ci sono delle curiosità sul computer, su magari un'orchidea che sboccia di notte, oppure le diete dimagranti. Ma insomma, non c'è quella, chiamiamola pure con la F minuscola, ma quella filosofia della scienza che è necessaria a un paese moderno per capire il ruolo fondamentale del cambiamento della società attraverso la scienza e la tecnologia che è sua figlia e in certi casi anche sua madre. Ultima cosa che le chiedo, nel suo libro c'è un'enfasi su tutto ciò che è educazione. Sì, per forza, perché guardi, io faccio un esempio che mi sembra abbastanza lampante, e cioè se uno tsunami colpisse l'Olanda e le acque invadessero le terre basse, tra l'altro le acque di mare salate, eccetera, e 2 milioni di olandesi rimangono senza casa e senza terra, allora si prendono questi 2 milioni di olandesi e si portano in qualunque parte disabitata del mondo e poi si lasciano lì e si torna dopo 25 anni per vedere cosa è successo. Allora, si troverebbero gli scheletri di questi olandesi oppure università e campi da tennis. Secondo me è più vera la seconda ipotesi. Credo anche io. Perché, diciamo, come diceva quel famoso omnia me a me conforto, cioè quello che è importante è avere nel cervello la capacità di riprodurre, per esempio, una società che richiede conoscenze, educazione, valori, organizzazione, imprenditorialità, merito, tutte queste cose che non sono cose visibili, non sono soldi, non sono strutture, non sono macchine, ma è il sapere e il saper fare. Ecco, per rispondere alla sua domanda, l'educazione è alla base, ma non sapere solo quanto fa il Perotto oppure chi era Leopardi, è capire il mondo, è capire che la capacità di innovare, di sviluppare quei motori appunto che sono l'educazione, la ricerca, l'imprenditorialità, in fondo il libro critica la politica che non si occupa dei veri motori sullo sviluppo. A cosa serve la politica di Piero Angela? Grazie Angela e buon lavoro. A voi, arrivederci. Arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci siamo, come ogni puntata, arriva il quiz. Quanta acqua beve un astronauta ogni giorno quando si trova lassù a galleggiare nello spazio? 3 litri, ci scriverete 3. 0,8 litri, ci scriverete 0,8. 1,5 litri e quindi 1,5. Ci scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è quello di cui abbiamo appena parlato, Cosa serve alla politica, di Piero Angela, edito da Mondadori, e il libro è offerto da libreriarizzoli.it. Attenzione, la risposta a questo quiz arriverà fra pochi minuti nel servizio che vi racconterà appunto di acqua e di alimentazione nello spazio. Dunque Alberto, com'è questa storia che gli americani la vogliono meno... meno mineralizzata. L'acqua. L'acqua, sì. I russi? Più leggera. I russi invece vogliono più sali minerali. Più densa. Sì. Alberto Agliotti è qui con me per parlare di alimentazione nello spazio, però lo facciamo con... Lo facciamo con Maria Antonietta Perino, che è responsabile per Thales Alenia Space Italia, dei nuovi programmi di esplorazione dell'universo. Buonasera. Buonasera a tutti. Quest'acqua allora arriva da Piemonte? Da dove arriva? Sì, noi siamo orgogliosissimi che l'acqua nostra sia così buona che da un po' di anni è stata scelta proprio per essere l'acqua bevuta a bordo della stazione spaziale, che è un manufatto meraviglioso, una tecnologia altissima che orbita a 400 chilometri di distanza sopra le nostre teste, dove vivono in modo permanente ormai 6 astronauti. E quindi si trattava appunto di scegliere, concedetemi fra virgolette, l'acqua giusta, ecco, per delle persone che sono chiamate a lavorare con estrema efficacia a bordo della stazione spaziale, e l'acqua giusta appunto è stata selezionata come acqua giusta quella nostra che arriva dal Piemonte, da Tien della Mussa. Quindi la SMAT è stata scelta come ditta che fornisce un'acqua che già di per sé nasce con ottime qualità, ma che viene trattata nel modo giusto, con un alto profilo tecnologico dalla SMAT prima di essere portata a bordo della stazione spaziale. SMAT è la società metropolitana Acque Torino, ma sì, dal Pian della Mussa arriva l'acqua per gli americani. Sì, sì, di fatto quando noi progettiamo un rifornimento per la stazione spaziale dobbiamo prendere visione con estrema attenzione dei requisiti che ci vengono imposti, diciamo, dagli astronauti. Quindi in questo caso gli astronauti americani preferiscono un'acqua più leggera, poco mineralizzata, che viene trattata con sali di iodio, mentre i russi amano un'acqua più ricca di sali minerali, che viene trattata con sali d'argento. E il nostro Paolo Nespoli quale beveva? Il nostro Paolo Nespoli immagino bevesse l'acqua americana, non gliel'ho mai chiesto. Quando però Paolo risponde, era con noi qua a Torino a Giovedì Scienza, risponde alle domande dei ragazzini, lui dice che a bordo della stazione spaziale gli astronauti sanno con certezza che domani berranno lo stesso caffè che hanno bevuto oggi. Che vuol dire esattamente? Poi appunto Paolo si diverte a chiedere se si è capito che cosa voleva dire. Esattamente vuol dire che ormai la tecnologia che c'è a bordo della stazione spaziale, da che è stato lanciato Nodo 3, permette un riciclo dell'acqua molto avanzato e quindi anche l'acqua, diciamo, che gli astronauti mettono sotto forma di urina viene depurata e riutilizzata il giorno dopo. In questo senso il caffè è lo stesso. È lo stesso, fra virgolette, chiaramente. Ma questo anche perché sulla stazione spaziale possiamo mandare l'acqua che arriva dal Piemonte ogni volta che vogliamo, più o meno. Ma se pensiamo invece a un viaggio verso Marte o comunque a una missione più lunga che non si può rifornire continuamente, l'ambiente in cui vivono gli astronauti deve essere assolutamente autonomo, autosufficiente. Beh sì, totalmente autonomo no, nel senso che comunque quando pianifichiamo missioni di lunga durata sia per la Luna che per Marte mettiamo in conto di portarci appresso delle grandissime quantità di quelli che noi chiamiamo consumables, che comprendono aria, acqua e cibo, oltre che poi tutte le attrezzature scientifiche. Vero è che in queste lunghe missioni dobbiamo anche beneficiare di tecnologie che ci permettano il riutilizzo di gran parte delle risorse consumate, quindi sicuramente si tratta di riciclare l'acqua, si tratta di riciclare l'aria, si tratta, se possibile, e ci stiamo lavorando da parecchi anni, si tratta anche di coltivare a bordo un po' di, concedetemi, un po' di insalata, un po' di pomodori a completamento di una dieta alimentare che per la maggior parte è comunque basata con cibo portato da terra. Ecco, qui veniamo al punto, perché l'ideale sarebbe portarsi un po' di galline che fanno l'uovo ogni tanto, ma credo che con problemi gravitazionali l'uovo non sia facile. Ma che cosa mangiano per un anno e mezzo degli astronauti su una nave spaziale che a quel punto certo non può ricevere toast dalla Terra? A che tipo di cibo state pensando? Beh, pensiamo comunque del cibo che è molto in linea con quello che già mangiano gli astronauti a bordo della stazione spaziale. Dovete sapere che la dieta dell'astronauta è valutata con estrema attenzione, quindi nel momento in cui si sceglie un equipaggio, i singoli membri dell'equipaggio dichiarano le loro preferenze alimentari e poi ci sono dei medici che mettono a punto una dieta ad hoc per ciascuno di loro. Quindi ogni pasto viene preconfezionato sulla Terra e calendariato, quindi si sa che il giorno X il menù del ristorante prevede quei certi cibi. Va detto anche, forse non in modo ufficiale, che poi a bordo gli astronauti magari hanno anche voglia di sentirsi un po' meno schedulati, quindi molto spesso fanno qualche cambio. Che si fanno, sì, che fanno dei cambi. Va detto anche questo, che l'ambiente gioca degli scherzi bizzarri, l'assenza di gravità che poi è un modo un po' veloce per dire l'assenza di peso, diciamo. di fatto è una gravità ridotta quella sì. A bordo della stazione o comunque a bordo di una nave per la Luna o per Marte. Ci sono dei cambiamenti proprio a livello del fisico dell'astronauta, quindi ci sono... Cambia l'alimentazione per seguire queste mutazioni? Non è che cambia l'alimentazione, ma cambiano i gusti, nel senso che vengono alterate le percezioni dei gusti anche, perché c'è uno spostamento dei liquidi verso l'alto e quindi le papille gustative ne risentono, e quindi abbiamo delle testimonianze, abbiamo raccolto testimonianze da astronauti che ci dicevano: sulla Terra io detesto il latte, nello spazio mi è venuta una gran voglia di mi piace un sacco, ma questo è veramente singolare. Ma quindi chissà se gli americani una volta a Torino apprezzerebbero ugualmente l'acqua del Piano della Mussa. Potrebbe essere. Ma io sono convinta che poi a bordo ci saranno delle grandi bicchierate di acqua scambiata. Non penso che questo sia una cosa così ferrea. Senta, no. Veniamo alla risposta. Quanta acqua si beve nello spazio? Rispondo io, rispondono gli ascoltatori. Gli ascoltatori avranno già risposto con i loro SMS. Lei ci deve dare la risposta giusta. Sì, beh, la risposta giusta è una risposta vicina alla vita nostra di tutti i giorni. Rimaniamo comunque esseri umani con le nostre abitudini, con le nostre esigenze, anche se siamo in volo verso le stelle. E quindi l'acqua che dobbiamo bere varia a seconda delle persone, da un litro e mezzo a due litri al giorno. E poi comunque ci serve altra acqua, come tutti sappiamo, per il resto, sia per cucinare i nostri cibi, sia per... l'igiene nostra. Ma noi avevamo chiesto da bere, quindi niente sorprese, niente cambiamenti. Nello spazio si beve sostanzialmente come si beve sulla Terra. Sì, però poi i ragazzi si potrebbero divertire a fare una moltiplicazione facile, sapendo che a bordo della stazione ci sono 6 astronauti che ci devono stare per 6 mesi, o che un equipaggio per Marte, anche lì stiamo pensando a 6-8 persone, e che una missione per Marte invece dura 3 anni, a un litro e mezzo di acqua al giorno per persona, vengono fuori dei grossi numeri. Quanti caffè ribevuti, lei sta dicendo? Molti caffè ribevuti. Molti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Fece un sacco di scandalo a suo tempo, parecchi anni fa, una trentina. Metti una sera a cena. Ecco, qui è metti una serie a cena. Il gioco di parole è divertente perché parliamo di una serie molto famosa. La serie è La successione di Fibonacci. Ora avremo tempo di spiegarci, ma di che cosa si tratta? Di uno spettacolo teatrale che abbiamo seguito io e Ilaria Canobbio questa settimana al Teatro Carcano di Milano. È una rassegna che si chiama Teatro in Matematica, molto interessante, curata e interpretata da un'attrice molto brava, Maria Eugenia D'Aquino, che sta andando avanti. Quindi noi vi facciamo ascoltare uno stralcio di questo spettacolo, però avrete la possibilità, per chi ovviamente si trova in zona, di poter vedere gli spettacoli futuri. Il prossimo è proprio lunedì 28 novembre, dove andrà in scena L'irrazionale leggerezza dei numeri, e poi gli altri è tutto consultabile tramite il sito del Teatro Carcano o anche sul nostro www.moebiusonline.eu. La prossima è il 16 di gennaio con Parallelismi, geometrie, euclidee e non. Metti una sera a cena, c'era molto sesso, qui no. Qui no, te lo posso garantire. L'uragano Batman si è abbattuto sulla Florida alle 3 di questa mattina, ora locale, contrariamente a tutte le previsioni degli esperti che non si aspettavano minimamente un tale evento. L'uragano è comparso all'improvviso come un pipistrello nella notte. Anche la conformazione dell'uragano è del tutto inusuale. Dovrebbe essere a forma di spirale e invece no. Secondo alcuni è una pera, secondo uno scienziato assomiglia a una sua vecchia zia scomparsa da tempo. Gli agricoltori di tutto il mondo si dicono allarmati per la strana mutazione genetica che sta colpendo frutta, piante e ortaggi su scala globale. Sono state analizzate le immagini di un cavolfiore proveniente dagli ultimi raccolti accanto ad uno tradizionale e si è notato come la tipica spiralatura pentagonale sia scomparsa. Sono proprio dettagli come la spiralatura, il numero dei petali nei fiori e la disposizione delle foglie a ritrovarsi nell'occhio del ciclone del dibattito internazionale. I greci avevano scoperto il segreto dell'armonia che tiene insieme tutte le cose. Adesso di quel segreto non restano che qualche cotto sparso qua e là e quel numero, E in quali altri oggetti si nasconde Fi? Prima, dappertutto. Fi non è un numero come tutti gli altri. È nascosto nelle cose. Ma adesso il mondo sta cambiando. In che senso? Ma non le senti le notizie? Cavolfiori che mutano. Uragani senza forma. A poco, Fi, se ne sta andando. Fi è la costante della perfezione. È il numero che viene definito come il rapporto della sezione aurea, che rappresenta la legge universale dell'armonia. Le dimensioni, ad esempio, della Monna Lisa di Leonardo sono in rapporto aureo, ma anche le fughe di Bach, Beethoven, Mozart e anche Stravinsky. Si nasconde dietro tutte le architetture perfette, nella disposizione delle foglie lungo uno stelo e nei gusci spiraliformi delle conchiglie. Fi in matematica è il rapporto tra due termini consecutivi della successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Fibonacci! Fibonacci! Fibonacci! Fibonacci! Fibonacci! Fibonacci! Di nuovo Fibonacci! Come di nuovo Fibonacci? Sì, sì, sì, sì. Anche lui lo incontro sempre dappertutto, nelle pubblicità, per esempio. Nelle pubblicità? Sì. Ma, sì, sì. Ma non esistono pubblicità di Fibonacci. E che ne so io, non so neanche chi è Fibonacci, tu lo sai? Certo che lo so, sono una matematica. Andiamo avanti. Perché? Fibonacci c'entra con la matematica? Fibonacci c'entra con tutto. Falle un regalo che vale oro. O del Fibonacci parfum. E lei ti dirà sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sono in casa? Accendi la serata con Fibonacci, l'aperitivo serio. L'unico alcolico che non ti fa vedere soltanto doppio, ma anche triplo, quintuplo, ottuplo e così via all'infinito. Ricorda, Fibonacci. E la tua casa vuota ti sembrerà piena di gente. I believe in miracles. Sul palco la matematica perde la dimensione di scienza austera e appunto diventa esplorabile e comprensibile da tutti, così come ci spiega Riccardo Mini, che è autore del testo teatrale. Io sono partito da una domanda, da una considerazione. Se è vero, come dicevano i greci, che nella natura, nel mondo fisico, sotto la natura si nasconde questa sorta di legge che crea l'armonia, però è come se ci fosse una sorta di codice che è presente a livello genetico in tutto ciò che esiste sulla Terra. Se questa armonia esiste davvero, e credo che esista, che cosa succederebbe se questa armonia venisse persa, se questo codice se ne andasse in qualche modo? E il testo è nato un po' come contrapposizione tra questo passato pieno di pensatori, di artisti, di scienziati che hanno ricercato questo principio di armonia e il fatto che nel mondo in cui viviamo adesso, dal punto di vista naturale, ecologico, finanziario, questa armonia si sta un po' perdendo. E il testo è stato proprio il trasferire questa disarmonia e vedere cosa succedeva poi di conseguenza nel rapporto di un personaggio col mondo circostante. Sono qui con Barbara Gallavotti e la saluto. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. E ci domandiamo, ma secondo te questa storia dei neutrini, quando è che riusciremo ad avere una risposta definitiva? A naso, potrebbe volerci anche molto. Ma guarda, secondo me a questo punto, per come si sono messe le cose, potrebbe volerci anche un annetto. Però tollerabile, va benissimo, insomma, è talmente importante. Per la scoperta del secolo, sì, certo, non è tanto. Dunque, tu vieni dall'aver visto da vicino, perché sei stata al CERN di Ginevra, insomma, hai contattato quelli che stanno lavorando sulla cosa, è stato fatto un altro esperimento, però che ha dato risultati buoni, ma non bastano, insomma. Adesso spiegaci un po'. Sì, dunque, la situazione effettivamente è intricata e molto interessante. Ti faccio la premessa. Qualche tempo fa, non tanto, il premio Nobel Sheldon Lee Glashow con un collega che si chiama Andrew Cohen ha pubblicato un articolo. Loro sono due teorici e hanno pubblicato questa analisi secondo cui non c'è modo che questi neutrini possano andare più veloce della luce a meno che non perdano energia lungo il tragitto. Ah. Questo vuol dire che devono avere all'arrivo un'energia inferiore a quella iniziale, ovviamente. Consumano e quindi... Consumano, ma questo purtroppo non si verifica. E quindi, secondo l'analisi di questi due teorici, non è assolutamente possibile che questi neutrini vadano più veloce della luce, a meno di non dover rinunciare a principi veramente cardine della fisica, come quello chiamato della conservazione dell'energia. Cioè, dunque, aspetta, se ho capito bene, se alla fine del tragitto la loro energia è uguale, lui dice qualcosa che non torna. Non è spiegabile, secondo loro, non c'è modo, e quindi ci deve essere un errore nell'esperimento. E allora i fisici di Opera hanno rifatto l'esperimento in un altro modo. All'inizio, nella prima versione, i neutrini arrivavano in quelli che possiamo immaginare come treni molto lunghi, e quindi qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che ci fosse in realtà un errore, perché si pensava che i neutrini fossero veloci, invece sostanzialmente partivano prima. Un trucco di questo genere, certo. E allora, per eliminare questo trucco e questa possibilità, e in questo sta la novità, i fisici del CERN hanno mandato i neutrini in treni cortissimi. In questo modo si può quasi identificare un neutrino alla partenza e all'arrivo, è lui, non c'è dubbio. Ecco, la cosa spiazzante è che questi neutrini continuano ad andare più veloce della luce, anche quando vengono osservati in questo modo. Insomma, e questa è la novità. Bisognerà farsi una ragione a questo punto. Beh, sì e no, perché è sempre Opera che ha visto questi neutrini, quindi uno dice, può esserci un errore nel loro apparato sperimentale, forse non misurano bene la distanza, oppure non misurano bene i tempi. Ma scusa Barbara, è sempre Opera, sono sempre loro d'accordo, e quindi per la deontologia fondamentale della scienza è bene che ci sia qualcun altro, ma qui c'è anche il fatto che l'esperimento è un po' sempre lo stesso, più accurato, sempre più accurato, ma ci vorrebbe un altro punto di partenza? Beh, sì, ci vorrebbe un'altra strumentazione, perché a questo punto tu non puoi escludere che l'errore sia proprio nello strumento con cui tu guardi il fenomeno. È un errore, diciamo, come se tu misurassi la febbre con un termometro stanato, in un certo senso. Sì. No? Allora puoi ripetere la misura tutte le volte che vuoi, però sempre un risultato strano ti verrà fuori. E quindi cosa succede adesso? Succede che nei prossimi mesi ci saranno degli altri esperimenti che cercano di rifare questa misura. Opera continuerà a prendere i suoi dati, ovviamente. Poi sempre sotto il grassasso ci saranno Borexino e Icarus, che sono altri due strumenti che guardano i neutrini, però di nuovo lì non è l'ideale, perché sono sempre localizzati nello stesso luogo. Ma soprattutto, ancora più interessante, è quello che verrà fuori dall'esperimento MINOS, che è negli Stati Uniti, e dal cosiddetto T2K, che invece è in Giappone. Questo esperimento americano, di questo giapponese non sapevo, si è aggiunto di recente, si era parlato subito dell'esperimento americano. No, i giapponesi ci sono sempre stati, si parlava dell'americano con più insistenza, perché in realtà un anticipo da parte dei neutrini era già stato visto prima di Opera dall'americano, da MINOS, solo che loro avevano un errore tale da coprire di fatto l'eventuale vantaggio, cioè loro vedevano la velocità dei neutrini un po' superiore a quella della luce, ma con un tale errore che avrebbe potuto anche essere inferiore. Qui noi dobbiamo ricordare che in questi esperimenti qui, in realtà a un certo punto, il nemico è proprio l'errore, ovvero quanto si riesce a ridurre un errore di misurazione, in modo che però la misurazione possa essere considerata valida, perché comunque degli errori di misurazione ci sono, e che se sono troppo ampi, come dire, gettano l'ombra su tutto, no? Infatti, supponiamo che la velocità della luce sia 10, per essere molto semplici. Io la misuro a 12 con un errore di 4, vuol dire che va da 8 a 16. E non ci siamo, certo. E quindi se è 8, è chiaro che non c'è nessuna novità. Però l'errore di Opera è molto piccolo, quindi da questo punto di vista loro in qualche modo sembrano essere protetti. Resta il fatto che può esserci proprio un errore intrinseco negli strumenti con cui loro prendono la misura. E quindi bisogna fare cose con altri strumenti, possibilmente. Certo che se giapponesi e americani confermano, a quel punto... Beh, a quel punto sarà veramente spiazzante, perché saltano, come ha fatto notare Grasso, i cardini della fisica, potrebbe cambiare tutto, però certo è difficile, perché la fisica come noi la conosciamo spiega tutto, o quasi. E quindi dobbiamo trovare un'altra spiegazione che sia altrettanto buona e anche capire come mai ci siamo costruiti una rappresentazione del mondo che funzionava perfettamente. E poi c'è questa cosa tremendamente suggestiva che molti dicono che effettivamente a quel punto dovremmo pensare che questi neutrini hanno un loro mondo parallelo al nostro, nel quale le cose vanno diversamente. Potrebbe venire fuori anche questa ipotesi, no? Ma stavo riflettendoci ieri, tanto ormai siamo nell'umore di lasciare libera le briglia tutto. Immagina che qualcosa possa andare più veloce della luce, allora pensa come potrebbe viaggiare veloce l'informazione sul pianeta, nel nostro pianeta, che adesso viaggia velocissima, ma comunque è limitata dal fatto che viaggia alla velocità della luce o quasi. Mm-hmm. Beh, certo. Avremmo fibre neutrine anziché fibre ottiche, chissà. Perché non pensare che a quel punto, se capisci come funziona il meccanismo, vai sempre un po' più veloce della luce, potresti imparare a far andare molto più veloce della luce. Beh, se per esempio esistessero delle scorciatoie dello spazio-tempo che ti consentono di andare da un punto all'altro dello spazio senza dover sottostare al limite della velocità della luce, chissà, potremmo ripensare ai viaggi su altri sistemi solari, cose che ci sono sempre state precluse, perché comunque ci arriveremmo tra migliaia di generazioni, invece... Va bene, stiamo calmi, fermiamoci qua. Sì, assolutamente. Aspettiamo giapponesi e americani. Grazie Barbara. Grazie Federico, buonasera a tutti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parliamo di un altro libro, anche questo uscito recentemente. Il suo titolo è Che cos'è la scienza? E l'autore Carlo Rovelli è qui con noi stasera. Buonasera Rovelli. Fisico teorico, Università di Marsiglia. Esatto. Da quanto insegna lì? Da quanto fa ricerca anche lì? Da poco, da 7-8 anni. Prima sono stato 10 anni negli Stati Uniti e prima lavoravo in Italia. Diciamo che, lo dico io, perché non sarebbe carino lo dicesse lei, che lei è uno dei fisici teorici italiani, non solo italiani, insomma, maggiormente impegnati nella ricerca con... ottimi risultati. Questo titolo, Che cos'è la scienza? Beh, insomma, sembrerebbe un po' ambizioso, un po' forte, però invece ci sta spiegando, come cerchiamo di fare adesso, ci sta benissimo con quello che è il suo contenuto, e il sottotitolo è La rivoluzione di Anassimandro. Questo libro avrebbe anche potuto intitolarsi Anassimandro, no? Sostanzialmente. Sì, il libro poteva intitolarsi Anassimandro, la versione, diciamo, in inglese del titolo si intitola Il primo scienziato. Questo è il cuore del suo discorso. Torniamo indietro ai tempi della filosofia greca, torniamo a questo personaggio. Certo, allora la scienza era molto diversa da come la maneggiate oggi, da come la conosciamo oggi, però quello che lei dice è che alcuni grandi concetti fondamentali, ma davvero importanti, beh, questo personaggio li aveva tirati fuori. Vediamone qualcuno. Sì, io dico questo, forse anche di più, forse che questa cosa che oggi facciamo e che chiamiamo scienza ha un percorso con molti inizi, però... Forse un inizio importante è proprio lì. Allora, sono 26 secoli fa in Grecia, anzi in quella che adesso è la Turchia, in una città certo. Mileto. E Anassimandro che ci viene spesso raccontato a scuola come uno dei primi filosofi, io credo che è anche di più forse il primo scienziato, ecco, quindi inventa un percorso nuovo, un modo nuovo di pensare al mondo. Anassimandro ha fatto tantissime cose, ma ce n'è una che è quella maggiore, direi. Lui è quello che comprende che la Terra non è il sotto del mondo, il cielo non è il sotto del mondo, ma la Terra è un grande oggetto che vola, che galleggia nello spazio, e il cielo è tutto intorno alla Terra. E questa è una rivoluzione immensa, perché intanto è giusto, è corretto, comprende una cosa vera, osservando il cielo, osservando i movimenti delle stelle, ma soprattutto scopre che il mondo non è quello che vediamo, può essere più complesso, più complicato, più bello anche, e che col pensiero e con l'osservazione arriviamo a capire come funziona il mondo, anche al prezzo, e forse questo è l'inizio della scienza, di cambiare dei concetti fondamentali nel modo in cui lo pensiamo, il sopra e il sotto, l'alto e il basso. Sì, lei scrive a un certo momento: si passa da un mondo visto come l'interno di una scatola a un mondo immerso in uno spazio esterno e aperto. E questa è la rivoluzione di Anassimandro. Lui però fa questa rivoluzione, ma non spiega nulla del come questo sia possibile. Però lei sottolinea con forza che qui la cosa davvero molto importante è affermare questa cosa, anche se non la spieghiamo. Lui dice però: questo pianeta galleggia nel vuoto. Questa è una grandissima rivoluzione, lei dice. Sì, è una grandissima rivoluzione. Lui propone un modo nuovo di pensare al mondo e in effetti convince tutti, perché convince prima gli altri, diciamo, filosofi, fisici greci. Il mondo greco, già al tempo di Platone e di Aristotele, erano tutti convinti che la Terra fosse un oggetto che galleggia nello spazio e che il cielo fosse tutto intorno. Quindi mostra che c'è un modo diverso di pensare il mondo che funziona meglio, che ci permette di capirlo meglio, e questo è quello che fa la scienza tuttora. Diciamo, le equazioni di Einstein e le equazioni di Maxwell sono un modo migliore di pensare il mondo, che ci permette di, che funzionano meglio, che ci permettono di capirlo meglio. E questa, la cosa in cui io insisto, è che questa è una rivoluzione concettuale, costruisce delle strutture di pensiero nuove a cui prima non aveva mai pensato nessuno. Prima per secoli la civiltà è molto più antica ovviamente che la Grecia del VI secolo avanti Cristo. Per secoli il mondo era stato visto appunto come una scatola e nessuno aveva il coraggio di pensare, beh, in fondo se il sole tramonta a occidente, ricompare oriente, fa il giro, deve passare sotto di noi, quindi sotto deve essere vuoto. No? È una considerazione abbastanza semplice in fondo. Sì, sì, però si apre una finestra immensa da un'altra parte, insomma c'è un panorama completamente diverso. Però noi oggi abbiamo quest'idea giusta, corretta, della scienza che è fatta di un apparato matematico potentissimo, soprattutto le cose che fate voi, fisici teorici, ma insomma moltissima matematica è fatta anche dagli ingegneri che costruiscono edifici, e poi abbiamo esperimenti, macchine di tutti i tipi. Però in fondo, riflettendo su come si producono le idee scientifiche, viene fuori che certe intuizioni che non hanno a che vedere con strumenti come la matematica o gli strumenti fisici, certe grandi intuizioni sono sempre fatte in quel modo, alla Anassimandro. Esatto, questa è la seconda parte del libro in cui parlo della scienza un po' in generale e uso la figura di Anassimandro per illustrare proprio questo modo di pensare la scienza. Io penso che spesso quando si parla di scienza si caratterizza l'attività scientifica in termini di misure, appunto, di macchine, oppure di equazioni, oppure di precisione, tutte queste cose che certamente fanno parte della scienza. Però tutte queste cose sono gli strumenti, sono accessori in qualche maniera. Quello che è il cuore dell'impresa è quella di ripensare il mondo, di trovare i giusti modi di pensare il mondo. Per esempio, usiamo le antenne, gli apparati elettronici e tutto quanto, e ci sono equazioni che le descrivano e molte applicazioni tecnologiche. Ma dietro tutto questo c'è l'intuizione di Maxwell o Faraday, che vede le onde elettromagnetiche. Capisce che nel mondo c'è qualcos'altro che non le palline degli atomi che si attivano e si respingono, ci sono le onde elettromagnetiche. Questa è un'intuizione profonda che simile a quella di Anassimandro, cambia la. Oppure Einstein, che vede che lo spazio si incurva. Sono idee che vedono qualcosa che di fatto non si vede e che poi con matematica e strumenti andiamo a rivelare. Però prima devono essere viste in modo totalmente intuitivo. Esatto, poi dopo andiamo a fare le misure, a confermare le predizioni che seguono, a scriverle in maniera precisa matematicamente, eccetera, eccetera, eccetera, tutto il resto dell'attività scientifica. Ma prima c'è questa forza immaginativa sul mondo che secondo me è il cuore della scienza ed è anche l'aspetto che in fondo la fa più bella. No? La scienza ci insegna a ripensare il mondo continuamente, ci insegna a rivedere il mondo, ci insegna anche a rivedere delle cose su di noi. No? Quando Darwin ci insegna che noi siamo parenti delle farfalle, cambia quello che noi pensiamo su noi stessi. Quindi è sempre un processo di rendersi conto che abbiamo delle idee sbagliate, rendersi conto che il nostro modo di vedere il mondo è parziale, frammentario, e possiamo imparare di più, possiamo correggere le nostre idee sbagliate, possiamo imparare a vedere il mondo con occhi diversi. Carlo Rovelli, Che cos'è la scienza? La rivoluzione di Anassimandro, edito da Mondadori Università, è una collana diretta dal nostro collega Armando Massarenti, qua del Domenicale del Sole, che ogni tanto appare anche nelle nostre trasmissioni, fa delle incursioni a Möbius. Grazie Carlo Rovelli e auguri per la sua ricerca. Grazie mille, arrivederci. Il nostro paese ha da tempo una tradizione importante nelle scienze fisiche, sia nella ricerca di base che nella ricerca applicata. In questa tradizione troviamo figure di grande livello che hanno dato alla fisica del secolo scorso apporti fondamentali, ma c'è un fuoriclasse assoluto, uno scienziato che ha scritto il suo nome in quell'elenco breve di chi ha fatto la storia della scienza di tutti i tempi. Enrico Fermi è il suo nome e a lui è dedicato il DVD che questa settimana si può acquistare nelle edicole insieme al Sole 24 Ore, è la collana Beautiful Mind che per il capitolo dedicato a Enrico Fermi ha scelto come narratore Giuseppe Bruzzaniti, storico della scienza. Grandi contributi da parte dei fisici italiani negli ultimi 100 anni, dicevamo, ma quando intorno al 1920 Fermi muove i suoi primi passi, la situazione non era affatto brillante. Sentiamo Bruzzaniti. Inizia la sua produzione scientifica in una situazione italiana che relativamente alla fisica è letteralmente disastrosa. Tanto per avere qualche ordine di grandezza, alla fine dell'Ottocento le cattedre di fisica su tutto il territorio nazionale sono 13. Nel 1926 salgono a 20, 20 professori ordinari di fisica su tutto il territorio nazionale. E comunque è una fisica ancora legata fortemente alla tradizione ottocentesca, una fisica di stampo dichiaratamente sperimentale. Le grandi teorie scientifiche che stanno occupando i centri più avanzati di fisica in Europa, ossia la teoria della relatività e la meccanica quantistica, non entrano in Italia. Anzi, sono fortemente osteggiate dalla comunità dei fisici. Grazie all'attività di Fermi, grande scienziato ma anche grande organizzatore, molto sensibile fra l'altro agli aspetti educativi, alla proposta formativa universitaria di quegli anni, la situazione cambia. Siamo negli anni 30, quindi in pieno regime fascista, regime che comprende alcuni importanti risultati ottenibili dalla ricerca e finanzia progetti. Sebbene, ecco, sentiamo un altro passaggio del DVD. Leo Szilard, che è un fisico molto attivo, come avevo detto, capisce subito la potenzialità di questo fatto e si attiva immediatamente convincendo un suo collega, Wigner, un altro fisico ungherese, a tentare di convincere Einstein, e ci riescono benissimo, a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti, a Roosevelt, per finanziare un progetto volto alla costruzione di una nuova arma fondata su questo principio, prima che i tedeschi potessero fare la stessa cosa. Nel 1938 Fermi riceve il premio Nobel per le sue ricerche sul cosiddetto decadimento beta, un passaggio fondamentale nella conoscenza delle proprietà del nucleo atomico. Parte per la Svezia con tutta la famiglia, ma al termine della cerimonia i Fermi si imbarcano verso gli Stati Uniti e là Enrico comincia a lavorare in laboratori americani. Conosce un fisico ungherese, Leo Szilard, e con lui fa altri passi in avanti sulla comprensione della fisica del nucleo. Ma siamo già negli anni del secondo conflitto mondiale. E la pila atomica di Chicago, il primo reattore nucleare, è opera di Enrico Fermi. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, quello che si era messo da parte questa settimana per raccontarvelo, l'abbiamo finito qua a Möbius, quindi ci si sente fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e tutte.